Io volevo dire che la mia generazione ha 35 anni, la mia generazione è nel mezzo del cammino della sua vita. Se quella dei Gabber aveva perso, la mia non ha manco giocato. È vero, che vi ridete? Non ha né vinto né perso, diciamo che ha pareggiato, infatti la chiamano generazione X, storicamente, insomma, c'è questa. No, che è successo? Che se le generazioni precedenti aspettavano Carosello per andare a dormire, la mia dorme davanti a Carosello praticamente tutto il giorno e aspetta, aspetta l'amore, aspetta l'iPhone nuovo, aspetta l'autobus che arriva sempre di meno, aspetta il Jobs Act, non dico tanto più stipendio e quelle roba di prima, insomma, al massimo aspetta Natale, ecco, Natale, Natale senza i pastorelli, senza le stelle, comete, aspetta Natale e basta, tutto l'anno, dall'inizio alla fine. Considerato che l'uomo che credevo non lo vuole più nessuno. Oggi che volere qualche cosa è sempre molto meglio che volere qualcuno. Noi aspettiamo per giorni che al cinema ritorni guerre stellari. Noi non ci viene manco il dubbio se a portare la pace ci vanno i militari. Gianni Graffitaro, cameriere, satirico e pittore di palle di Natale. Tragico, retorico, alcolista, insomma conti fatti, un intellettuale. Con la lingua tra i denti mi dice stiamo attenti, non c'è più distinzione tra noi idealisti, artisti e concorrenti dei giochi a premi in televisione. Tra qualche mese è già Natale, ma c'è qualcosa che non va. Mi sembra che sia carnevale, quanti in maschera. Dun dun. Visto e considerato che il mondo che sapevo non lo so manco a puntate. E se la storia si ripete io la darò a settembre dopo l'estate. Ho messo in fila le 100.000 storie passate, tutte insieme non ne fanno una, per non pensarle tutte sbagliate. All'aperitivo delle 6 mi sono fatto avanti con Margherita. Le ho mandati cuori su WhatsApp, che tanto dal locale era già uscita. Vedrai che è cotta, dice Carlotta, che se lo sente a guardare il video di YouTube che m'ha linkato ma non si sente. Tra qualche giorno è già Natale, ma tu non sei tornata più. Rifà un caldo tropicale, ho messo al cuore il paraflu. Considerato che il mondo che credevo è rimasto nei fumetti, quando tra Keshiro e Peter Pan tutto sommato avevo una serie di progetti. Con mio cugino che a biliardino era Maradona, giocavamo a fare i re di cosa, con una 33 di birra era l'unica corona che avevamo in testa a quell'età, insieme a due o tre cose per non essere un fascista. Non lo sapevamo per esempio di quando Licio Gelli era stato uno statista. Ora che è morto e se ne è accorto anche mio cugino, logge venerabili potenti, lui sfida tutti quanti a biliardino. Fra due minuti è già Natale, che voglio in dono, già lo so, che non mi chiuda il mio locale e rivedere i tuoi marò. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Ecco, questo era tanto per spiegarvi che ero venuto a fare.